Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Radiobook, il programma del blog Gli scrittori della porta accanto in collaborazione con Radio Big World. Oggi abbiamo un'intervista speciale. Ha scritto dei bellissimi thriller, è una persona modesta e alla mano e per non farsi mancare nulla ha anche vinto il premio Corpi Freddi a pari merito con Piergiorgio Puliksi. Si chiama Pierluigi Porazzi, è l'autore di L'ombra del falco e del suo sequel, Azrael, un romanzo da brividi. Potevamo non intervistarlo? Assolutamente no. Ciao Pierluigi, inizio con una domanda cattivissima. Hai ambientato i tuoi thriller più famosi, L'ombra del falco e Azrael, a Udine, con conseguente effetto brivido sui lettori friulani che frequentano le strade udinesi più o meno quotidianamente. Quanto ti senti in colpa e quanto ti senti soddisfatto? Ma soprattutto, quanto è importante l'elemento territoriale in Friuli Venezia Giulia? Il fatto di dare qualche brivido ai lettori friulani fa senza dubbio piacere per un autore, perché significa che si è riusciti a coinvolgere i lettori. L'elemento territoriale è importante nei miei romanzi. Mi è piaciuto ambientare le storie che ho scritto in quella che è la mia città e farla diventare protagonista dei miei romanzi anche perché è una realtà attenta alla cultura e alla letteratura e si adatta bene a un'ambientazione noir. I personaggi sono sempre intriganti e anche se li descrivi accuratamente riesci sempre a trovare il modo di rimescolare le carte in tavola e far diventare colpevole chi non avrebbe mai potuto esserlo agli occhi del lettore. Qual è il segreto? Sei tu a decidere l'identità del serial killer oppure è la trama? Nei romanzi che ho scritto finora, l'identità del colpevole mi era chiara fin dall'inizio. Sapevo come si sarebbero conclusi e quali erano le motivazioni del colpevole. Molte sottotrame o vicende si possono costruire nel corso della stesura, ma il nucleo principale della storia, l'idea di base, è già chiara fin dall'inizio, quando si scrivono le prime pagine. Ad esempio, nel caso di Adrien, la forte idea alla base del romanzo è stata indispensabile per la stesura. Se non l'avessi avuta, non avrei ripreso il finale aperto dell'Ombra del Falco. Non sei il tipo di scrittore che crea sull'onda dell'ispirazione, anzi, i tuoi romanzi sono sempre frutto di un enorme lavoro di riscrittura, di meditazione e di modifiche strutturali sostanziose. Come fai ad essere così paziente durante il processo di ideazione e di messa a punto? Per molti editing e rilettura sono una bella palla al piede. Diciamo che ci sono entrambe le cose. In tutti i mestieri che hanno a che fare con l'arte, l'ispirazione è quella che ti arriva a volte anche all'improvviso e ti dà lo spunto, l'idea di base su cui lavorare. Poi ovviamente c'è tutto il lavoro di stesura del romanzo e di successive correzioni, limature e alla fine editing, che fa parte integrante di un lavoro a livello professionale. Nelle fasi successive alla prima stesura, la pazienza e la capacità di dedicarsi al testo sono indispensabili per dare al lettore un lavoro di qualità. Quando hai iniziato a pensare, accipicchia vorrei proprio fare lo scrittore, e che iter hai seguito? Pensi che le tue letture in età adolescenziale e neoadulta ti abbiano influenzato? Ho sempre amato l'arte, in particolare la letteratura e il cinema, e ho sempre avuto il sogno e l'aspirazione di poter creare qualcosa di mio. Ho iniziato a pensare di poter fare lo scrittore fin dall'adolescenza, quando scrivevo i miei primi racconti brevi. Un percorso molto difficile e impervio, soprattutto per chi, come sottoscritto, può contare soltanto sulle sue capacità. Le letture in età adolescenziale e adulta mi hanno senza dubbio influenzato e fatto crescere. Leggere grandi autori classici e contemporanei è indispensabile per imparare e per crescere come scrittori. Hai mai pensato di cambiare genere letterario? Quali ingredienti ti piacerebbe sperimentare tra quelli che non hai ancora utilizzato? Sì, alcuni anni fa avevo un romanzo non di genere, thriller noir, praticamente già pronto per la pubblicazione, ma poi ho preferito aspettare. Per il momento non ho intenzione di cambiare genere. In futuro potrebbe senz'altro accadere, mi piacerebbe sperimentare nuove strade narrative. Magari scrivere di mondi alternativi o storie di fantascienza, chissà. Anche oggi concludiamo la nostra puntata leggendo un estratto. E non è un caso se leggiamo Azrael del nostro Pierluigi. I passi dell'uomo fanno scricchiolare la ghiaia nel silenzio della notte. Il cono di luce di una torcia a illuminare il terreno. Si accovaccia vicino a una lapide e vi passa sopra una mano guantata. Come a pulirla? Sulla lapide una scritta incisa nel marmo: Rebecca. Nient'altro. Non c'è alcuna data né fotografia, solo il cognome per evitare vandalismi. Il marmo da poco prezzo è ingrigito dalle intemperie e dalle trascuratezze. Nel vaso al centro un mazzo di fiori ormai appassiti. Niente fiori per suo padre, per l'uomo che un tempo era conosciuto come Lucignolo, un pedofilo assassinato alcuni anni prima. Un omicidio senza colpevoli, del quale fu sospettato l'ex poliziotto Alex Nero. Si alza e cammina verso l'ala opposta del cimitero, dove stanno dissotterrando le salme più vecchie, per fare spazio ai nuovi arrivati. Si dirige deciso verso il mini escavatore e carica vicino al posto di guida un badile e una scala a pioli. Poi lo accende manovrando il braccio mobile. Dà un'occhiata intorno. Il cimitero è isolato, nessuno dovrebbe sentire il rumore. Si sposta di nuovo verso la tomba di Lucignolo. Affonda nel terreno sollevando la lapide. Appena raggiunge una profondità sufficiente, spegne il mini escavatore. Scende nella buca portando con sé la scala e il badile, poi continua a scavare. Quando ha raggiunto la bara, la lama tocca il legno ormai marcio. Il sudore gli cola dalla fronte, si pulisce con un fazzoletto che infila in tasca, non deve lasciare tracce. Fa leva con la pala per aprire la cassa. Il coperchio cede subito alla pressione. Getta la pala a terra e prende la torcia, puntandola verso l'interno della bara. C'è ormai poco del corpo di colui che un tempo era suo padre. Appoggia la torcia e strappa l'imbottitura della bara, con cui avvolge i resti del cadavere. Uscito dalla buca, infila il fagotto in un sacco nero delle immondizie. Poi prende da una tasca del soprabito una bottiglietta di benzina e ne versa il contenuto su ciò che resta della bara. Accende un fiammifero e lo getta all'interno della fossa. Le fiamme si alzano illuminando il suo volto. Il calore del fuoco gli arriva sulla pelle. Il fuoco che purifica, che distrugge ciò che è stato, la sua eredità, il suo passato. Appena le fiamme si sono placate, ricopre la buca, rimettendo tutto a posto. La lapide è leggermente storta, ma nessuno ci farà caso. Quando ha finito, scavalca il cancello del cimitero con il sacco nero legato intorno a una spalla. Il vapore denso sembra nebbia. Flora è in piedi di fronte allo specchio, completamente appannato. Inizia a pulirlo con un asciugamano e si prepara alla consueta visione del suo volto: i capelli biondi corti, la ricrescita scura alle radici, il piercing al labbro inferiore, le lentiggini sul naso, gli zigomi alti, quegli occhi grandi e verdi. Appena ha rimosso la condensa dallo specchio, sussulta. Il suo viso nel riflesso è pallido, troppo pallido, e quella specie di collana rossa. Lei non ha mai portato una collana così. Si tocca il collo. Sente un liquido caldo bagnarle le dita e allora si accorge che la gola è tagliata. Il sangue sta uscendo a fiotti dalla ferita. Vorrebbe gridare, ma dalla bocca le esce solo un suono sgradevole, come un gorgoglio. Deve uscire dal bagno, chiamare aiuto, ma le sue gambe non si muovono. Qualcosa la trattiene al lavandino. Flora raddrizza di scatto il busto, ansimante. Si passa le mani sul collo. È solo un incubo. Con sollievo si lascia ricadere sul letto. Fissa il soffitto grigio. Grigio? Le pareti della sua stanza da letto sono bianche. Sua madre le ha appena fatte riverniciare. Si solleva di nuovo e si guarda intorno. I muri di cemento grezzo, i suoi vestiti abbandonati sul pavimento, una sedia accanto a una parete, una telecamera al centro della stanza, un tavolo e altre sedie dalla parte opposta, e una porta chiusa. Aggrotta la fronte ripensando alla sera prima. Una sfilata di moda al castello. Lei era lì da sola. L'amica che avrebbe dovuto accompagnarla le aveva dato buca. Al termine della sfilata si aggirava annoiata tra la gente. Poi lo aveva visto, l'uomo che aveva conosciuto in palestra. Alto e robusto, il fisico imponente, come piace a lei. Avevano parlato mentre il buffet veniva preso d'assalto. Il tempo era passato senza che se ne accorgesse. Avevano guardato l'orologio. Oh, adesso devo andare! Era stata incredula. Ti accompagno, aveva detto lui. Stavano camminando sotto i portici della loggia del Lionello quando l'uomo aveva emesso un verso strano, piegandosi sulle ginocchia. Si era avvicinato al muro, dandole la schiena. Continuava a lamentarsi. Ti senti male? Le aveva chiesto Flora, sfiorandogli la schiena con le dita. Lui aveva agitato la mano, come a chiederle aiuto. Flora si era avvicinata ancora, cercando di controllare la nausea. Non aveva mai sopportato la vista di qualcuno che vomita. Figurarsi, si sarebbe sentita male anche lei. Per fortuna sembrava che non avesse ancora rimesso. È accaduto tutto talmente in fretta che lei non si è resa conto di nulla. Il braccio dell'uomo che le ha circondato le spalle. Poi qualcosa, un ago, forse, che le ha punto il collo, una sensazione strana di stanchezza, l'ha assalita improvvisamente, la testa girava, le palpebre non riuscivano più a stare aperte. E subito dopo il buio, non ricordava nulla, non ricordava che l'aveva sorretta mentre perdeva conoscenza, conducendola fino alla sua auto come se fosse ubriaca. E adesso non sa nemmeno dove sia, né perché sia nuda. Il respiro affannato scossa le lenzuola, sta per scendere dal letto ma perde l'equilibrio e cade a faccia in giù, fa appena in tempo ad appoggiare le mani sul pavimento evitando di battere la testa. Qualcosa le ha trattenuto la gamba destra all'altezza della caviglia. Forse è impigliata le lenzuola. La tira verso di sé con un movimento nervoso, ma non riesce a muoverla. Si gira per cercare di liberarla. E vede la corda che le stringe la caviglia. Una fitta di paura le attraversa le viscere. Frenetica cerca di sciogliere il nodo. Il tocco di una mano sulla spalla, però, la fa sobbalzare. Non penserei di andartene così presto. L'uomo è in piedi di fronte a lei. Flora scuote appena il capo. No, però adesso slegami. Certo. La lama di un coltello le passa davanti al viso, si abbassa verso la sua gamba e taglia la corda. È sufficiente la vista della lama a paralizzarla. Gli occhi sbarrati da cui stanno scendendo lacrime. Ecco, adesso non sei più legata. Flora si alza lentamente, gli dà la schiena e cammina verso i suoi vestiti. Li raccoglie dal pavimento e li stringe tra le braccia. Posso andare in bagno? Chiede girandosi verso di lui. Lo osserva per la prima volta da quando si è alzata dal letto. Non riconosce quasi più l'uomo che si trova di fronte. La luce che scorge ora nei suoi occhi è fredda, nera, diversa da quella calda e blu della sera prima. Lui si avvicina senza rispondere, la afferra per un braccio e la getta sul letto. I vestiti le cadono dalle mani, volando dalla stanza. L'uomo salta su di lei, premendo il corpo contro il suo, e le punta il coltello alla gola. Non ho ancora finito con te, sibila, e affonda la lama nella carne. Aveva ragione lui, se si sente Dio. Le lacrime che gli scorrono sulle guance non sono di dolore, sono di gioia, di esaltazione. Adesso arriva la parte più difficile. Deve aprirle il ventre e toglierle gli organi interni. Devono trovarla così, come le lasciava lui. Appoggia il coltello sulla pancia della ragazza, serra le palpebre e preme con tutte le sue forze. Quando ha finito, l'uomo in piedi vede soltanto rosso. Il rosso del sangue che ha intriso lenzuola e materasso, che è schizzato sulle pareti e sui vestiti. Apre le dita e il coltello cade, lasciando sul pavimento alcune gocce scarlatte. Accanto al letto un contenitore di plastica con le viscere della ragazza. Un ultimo sforzo, deve metterle in un sacco delle immondizie e farle sparire. Le seppellirà in un bosco fuori città. Il cadavere invece farà in modo che venga trovato, ha già deciso dove portarlo. Ancora sporco di sangue si siede alla scrivania. Di fronte a lui il monitor è scuro. Premi un tasto. Sullo schermo compare la pagina di un programma di posta elettronica. Clicca sul nuovo messaggio e inizia a scrivere. L'ho fatto, aspetto altre istruzioni. Si ferma un istante per concentrarsi e poi continua a digitare sulla tastiera. Alla fine, nella casella del destinatario, scrive l'indirizzo: falco2@gmail.com. L'indirizzo di Cristiano Barone, il serial killer che aveva seminato il terrore alcuni anni prima e che ora si trova in un carcere a 500 km di distanza. Il suo mentore, il suo idolo, il teschio. Ripensa alla prima volta che l'ha incontrato. So tutto di Maria, gli aveva detto Barone, tenendo con le mani un asciugamano attorno al collo, nella sala della palestra Audax in Viale Palmanova. Lui non sapeva ancora chi fosse, lo aveva osservato dal basso, sdraiato sulla panca, e aveva visto un uomo sulla quarantina, capelli chiari, lunghi, barba di un paio di giorni. Aveva appoggiato il bilanciere ai sostegni. Scusa? Barone gli aveva sorriso. La prostituta strangolata nel suo letto. Poiché ne parliamo qui, o preferisci un posto più tranquillo? Si era alzato dalla panca e si era guardato intorno. Rilassati, non ha sentito nessuno, lo aveva rassicurato Barone. Ok, andiamo al bar. Mentre camminavano stava pensando a chi potesse essere quell'uomo. Si ricordava che qualcuno gli aveva detto che era un poliziotto. Una stretta allo stomaco. Un attimo e la sua vita sarebbe stata rovinata. Era stato solo un incidente, avrebbe detto così. E in fondo era vero, era stata lei a provocarlo, a chiedergli ancora più soldi, a dire che non poteva aspettare tutta la sera. Lui le aveva stretto le mani alla gola per darle una lezione, per spaventarla. Ma poi si era eccitato e aveva continuato a stringere. Quando le aveva lasciato il collo era troppo tardi. Davanti al bancone del bar, Barone gli aveva spiegato che era un ispettore di polizia e che stava indagando sull'omicidio della prostituta. Aveva scoperto che era stato lui, ma non aveva intenzione di portarlo in questura. Allora cosa vuoi? Non ho soldi da darti. Non voglio soldi, ti tengo d'occhio da un po'. So di te più cose di quanto immagini. Potresti divertirti molto di più, senza alcun rischio. Barone aveva fatto un sorriso complice sorseggiando uno spritz. Cioè? Il poliziotto si era piegato verso di lui, abbassando la voce. Sai cosa si prova a tagliare le gola a una ragazza? Si era sentito la bocca secca, aveva bevuto un sorso e gli aveva chiesto: Tu l'hai fatto? Barone era rimasto in silenzio. Era cominciata così. Non gli aveva detto molto altro. Quando aveva letto sui giornali che Barone era stato arrestato, si era messo in contatto con lui, scrivendogli al suo indirizzo email. Non sapeva quando avrebbe potuto rispondergli, ma dopo alcuni giorni gli era arrivato un messaggio. Barone gli aveva scritto la combinazione di un armadietto. Era un armadietto della palestra. C'era nascosto dentro un mazzo di chiavi e un indirizzo. C'era andato subito. L'indirizzo corrispondeva a una casa in pietra a tre piani, di quelle antiche costruite nel dopoguerra e ristrutturate dopo il terremoto nel 76. La zona era tranquilla, un paese a pochi chilometri da Udine. Aveva aperto la porta con le chiavi trovate nell'armadietto. All'interno odore di chiuso, di vecchio. C'è nessuno? Aveva chiesto. Silenzio. Aveva fatto un giro della casa. A parte la polvere era tutto in ordine, aspettava solo di essere abitata da qualcuno. Quando era sceso nel seminterrato aveva trovato quello che stava cercando, una grande stanza insonorizzata. Al centro una telecamera su un treppiedi, già posizionata per filmare un nuovo omicidio. Sul lato destro una sedia, con accanto una catena fissata alla parete da un anello. Dalla parte opposta all'ingresso un letto, sul materasso due corde e una catena, anche questa fissata al muro. Sul tavolo vicino alla porta c'erano alcuni coltelli, un bisturi e un'accetta, una pistola. Era già tutto pronto. Alcuni mesi dopo, appena rientrato a casa dal lavoro, aveva trovato un'altra email, un messaggio in cui Barone gli aveva scritto quello che avrebbe dovuto fare. Gli raccomandava di seguire le istruzioni in modo preciso, faceva tutto parte di un piano e qualsiasi errore, anche minimo, avrebbe potuto farlo fallire. Finito di leggere, si era alzato dalla sedia con un ghigno sulle labbra. Aveva aperto un armadio ed estratto dalle guide un cassetto, appoggiandolo sul pavimento. Al dorso del cassetto era fissata una busta di plastica. Aveva preso la maschera e il lattice e se l'era infilata in testa, la schiena dritta e il petto in fuori, si era guardato allo specchio dell'armadio, al posto del suo volto un teschio. Ucciderò Alex Nero. Cristiano Barone, il serial killer conosciuto come il Teschio, ha aperto la sua casella email e sta leggendo l'ultima frase del messaggio che ha ricevuto dall'indirizzo asrael@hotmail.it. È seduto di fronte allo schermo di un computer, nell'ufficio del direttore del carcere. Sul suo volto si è disegnato un sorriso malvagio. Barone chiude le finestre di Windows e spegne il computer, poi si alza dalla sedia, esce dalla stanza e si rivolge al secondino che sta presidiando l'ingresso. Ti arriverà un bonifico sul conto. Il secondino si guarda intorno. Sarà meglio, sta rischiando grosso. Adesso andiamo, devo riportarti in cella. Hai finito? Cristiano Barone sorride. Abbiamo appena iniziato. Anche oggi termina la nostra puntata. Vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima. Dopo questo estratto da brividi non potete non sapere come andrà a finire la storia, quindi vi ricordo il titolo del romanzo, Asrael di Pierluigi Porazzi. Ciao!